Ora, per i più piccoli, è una storia, la storia di uno squalo un po' sfortunato. Non sono io. C'era una volta un giovane squalo nell'oceano indiano, in cerca dell'anima gemella, nell'ostrica la perla. Un giorno incontrò una graziosa sardina che muovendo la coda gli faceva rizzare la pinna. Ma in un giorno di piogge e di acqua torbida ammazzò mille pesci per conquistare la sua anima. Dopo averli masticati come farebbe un pinguino, glieli donò da gente squalo assieme a del buon vino. Mi spiace signore, apprezzo il gesto, ma sono fidanzata con un bel pesce lesso. Così rispose la dolce sardina, una delle tante nel mare salato della Cina. Allora lo squalo estremamente abbattuto cercò un burrone per scordarsi del rifiuto. Dopo averlo trovato si cercò di buttare, non c'era nulla da fare, continuava a galleggiare. Ancora più incazzato vagò negli abissi finché non si imbatté in un branco di stoccafissi. Subito notò al centro del gruppo un'orgogliosa tartaruga tutta piena di trucco. Nascondeva ogni ruga cercando la fuga dagli stoccafissi, anche da un'acciuga. Allora lo squalo lo stese a guardare, ma mostrò tutte le sue doti da militare. Portò in salvo la pelle di suo guscio e fu ringraziato con un bel bacio sull'uscio della porta a cui lo squalo l'aveva accompagnata prima che gli dicesse: mi spiace ma sono sposata. Qualcuno sta tenendo il filo della storia per caso? Allora l'ingenuo squalo in preda allo sconforto si chiese se a Poseidone avesse fatto qualche torto. Si rese conto di essere pulito come il mare che sta poco a largo di un porto commerciale. Solitario notò allora lungo per la terra e senza capire come arrivò sulla Senna. Lo squalo quando pensò ad essere immune alle donne, persino a quelle belle con le minigonne, si innamorò per sbaglio di una ragazza francese alla quale tacque tutte le sere spese a fantasticare sulle sue femminili squame, immerso così tanto da non sentire più fame. In preda ad un amore quasi da ragazzino passò interi mesi a stonarsi di vino. Un giorno prendendo un sole sbronzo su uno scoglio trovò accanto a sé un curioso foglio. Stupito e emozionato lo lesse attentamente, era di lei, voleva un appuntamento galante. Ma quando si ricordò delle sventure passate, l'oggetto via piegato dalle risate.